Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. Che cosa fanno due persone che hanno qualcosa da dirsi? Beh, semplicemente si parlano. Ebbene, a Smau settimana scorsa a Milano ho incontrato i fondatori della startup OneSecPay, che hanno pensato bene di fare in modo che anche smartphone e tablet possano semplicemente parlarsi. D'altronde non c'è uno di questi oggetti ormai presenti in tutte le tasche che non abbia almeno un microfono e uno speaker, e tutto sommato i vecchi fax non facevano altro che scambiarsi toni e beep lungo la linea telefonica. Ed ecco allora un esempio del tipo di conversazioni a cui potremmo assistere in futuro. Sentite. Che cosa abbiamo sentito? Ce lo spiega Luciano Mariani di OneSecPay. Ascoltiamo. Questo è un messaggio che praticamente contiene un link dove c'è una fotografia dove io ho messo un messaggio. Ciao da ByteWin, ed è nel cloud, e praticamente chiunque riceva questo suono, questa sequenza, con diciamo delle applicazioni apposite, certo, in automatico riceve il file che è associato, che può essere una fotografia, un link, una nota testuale. Quindi questo suono appunto codifica, ma se noi avessimo passato questa stessa informazione attraverso un'altra tecnologia che faceva uso di onde elettromagnetiche, anche lì ci sarebbe stata una codifica da fare. Certo. Solo che in questo caso noi sentiamo in qualche misura questo messaggio, questo che viene passato. Contiene un link a un database, diciamo, certo, in remoto, e l'informazione in questione viene scaricata direttamente da lì. Certo. Quali sono le differenze tra questa tecnologia che voi proponete e l'NFC piuttosto che il Bluetooth, che sono tecnologie per trasmettere dati a breve distanza, sì, no? Di prossimità. Diciamo che i vantaggi maggiori sono che la scalabilità, perché in realtà diciamo tutti i dispositivi che noi abbiamo a casa praticamente ricevono e trasmettono onde sonore, quindi in realtà non lo possiamo fare solo tra due dispositivi cosiddetti smartphone o tablet, ma possiamo farlo anche dalla radio della nonna vecchia del 1920 allo smartphone, certo, video, piuttosto che alla televisione, un RVM, una registrazione, un vecchio filmino, un video di un matrimonio dove tu vuoi metterci un piccolo tono, dove andare, che ne so, a prendere le fotografie o un second screen. Ok, questo quindi è uno dei vantaggi. Altri vantaggi? Altri vantaggi sono che rispetto agli altri sistemi funziona con diciamo un consumo energetico più basso. Più basso, perché i microfoni restano accesi di fatto senza consumare energia. Sì? E soprattutto non richiede l'accoppiamento. Cioè non richiede di consumare batteria in due dispositivi per fare una scansione di reti e quindi scambiarsi, diciamo, i nomi dei due dispositivi. Diciamo che i due dispositivi non devono presentarsi prima di poter parlare. Certo. In questo caso possono parlare direttamente, come stiamo facendo noi, anche se non ci siamo mai senza visti, digitare, no? Mai l'indirizzo, diciamo, del destinatario, e senza, diciamo, dover accendere un altro hardware. Ecco, tra l'altro abbiamo sentito questo suono, ma questo una sequenza di suoni può essere anche per esempio negli ultrasuoni, per cui questo protocollo potrebbe consentire anche messaggi non di fatto udibili, e la sua gittata cambierà evidentemente col volume, cioè, in base al volume, in teoria, certo, anche in un supermercato io potrei sparare a palla uno di questi messaggi sonori per tutti quelli che ci stanno dentro, certo, in quel momento. Ecco, quali sono gli scenari possibili di applicazione ai quali state magari anche pensando? Il primo scenario è quello di scambio di fotografie o di link tramite, diciamo, un'app scaricabile che è in fase, diciamo, di costruzione, e che permette di prendere delle fotografie o scattare delle fotografie in tempo reale, appoggiarle in una nostra struttura con, diciamo, un po' di spazio web a disposizione messo da Microsoft Azure, che ringraziamo. E successivamente, per ogni caricamento, diciamo, nel cloud, verrà generato un link. Un tono, diciamo, un tono così. Questo link può essere condiviso tramite due smartphone o una radio, che, uno smartphone, che caricano l'applicazione. Altri esempi possono essere la dematerializzazione delle Fidelity Card. Parcheggi, era una cosa, sì, ne parlavamo prima, uno può uscire, ben noto, ormai si arriva alla sbarra, di solito si esibisce uno scontrino, una tesserina, a questo punto tirerò fuori lo smartphone dalla finestrino, farà piro piro piro e si aprirà la sbarra. Poi c'è diciamo la soluzione più ambiziosa, che è quella di utilizzarlo come alternativa all'NFC, alle Near Field Communication, come sistema di pagamento di prossimità. Non ci sono problemi di riservatezza, io faccio un pagamento e metto un suono che qualcun altro nei dintorni potrebbe magari registrare, e chissà che non riesca no, a prendersi dal mio conto in banca quella cifra lì, non c'è questo problema. Diciamo che c'è, diciamo, come scenario c'è la possibilità di perdere un po' di immediatezza nello scambio di questi dati molto riservati, che sono comunque cifrati, e avere, diciamo, una specie di ping pong di informazioni al fine di diciamo, avere un riconoscimento tra due dispositivi e solo tra quei due che possono scambiarsi dei dati. Sostanzialmente a questo punto i due dispositivi devono presentarsi l'uno all'altro, si scambiano una chiave. Una chiave sotto forma di PIN o sotto forma di password veloce. E quindi questo suono viene trasmesso da un oggetto ad un altro, ma se qualcuno lo capta non è in grado di decifrarlo sostanzialmente. Certo. Va bene, grazie Luciano Mariani e in bocca al lupo. Grazie a voi. Ed eccoci di nuovo in studio, anche per questa sera abbiamo concluso, appuntamento a domani, buona serata. Audi ti aspetta su audiinnovativethinking.it, la piattaforma delle idee e delle persone che aprono la strada al cambiamento.